GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un ragazzo caduto in mare a Trieste all'alba, ricerche in corso. Secondo le testimonianze si trovava con degli amici, è caduto nei pressi di un molo nell'area del Porto Vecchio, forse dopo un malore. L'ondata di maltempo attraversa la regione dopo i danni di ieri sera, disagi anche oggi a Udine, sopra il luogo del sindaco De Toni, nelle zone più colpite del Pordenonese, sott'acqua la Pedemontana. E nonostante il maltempo continuano le ricerche del giovane rumeno inghiottito dal Natisone, il fiume è tornato impetuoso e le sue acque sono torbide, sospesa l'attività dei sub che torneranno a immergersi nel pomeriggio. Via i migranti dal silo entro 15 giorni, lo prevede l'ordinanza del sindaco di Trieste di Piazza. I proprietari della struttura si dicono pronti a intervenire per mettere in sicurezza l'area, ma per i migranti non c'è un sito alternativo. 50 università si riuniscono a Udine per 2 giorni, obiettivo fare il punto sulla sostenibilità e sul ruolo giocato dagli istituti. Per il rettore dell'Ateneo Friulano Pinton, il mondo accademico deve diventare protagonista della transizione nei territori. Inaugurata nel padiglione 5 dell'ospedale di Udine, una nuova sala angiografica che dovrebbe consentire un aumento del 30% degli interventi per cardiopatie ischemiche, aritmie, patologie valvolari e cardiovascolari. Buongiorno da Dario Ronzoni e Andrea Covri, in studio per questa edizione del giornale radio regionale. Apriamo con il tempo. È in corso l'allerta meteo prevista fino alle 14, attualmente il cielo è coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 17 gradi, mare mosso con temperatura di 23 gradi e mezzo, a Gorizia 18 gradi, a Udine 18 e mezzo, a Pordenone 20 e mezzo, a Piancavallo 12, Tarvisio 12 e mezzo, Sappada 13 e mezzo, Forni di Sopra 15 e mezzo, Tolmezzo 18 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 5 gradi e mezzo, Monte Zoncolano 8 e mezzo, tornando sulla costa a Grado 18 gradi e 5 decimi, Lignano 20 gradi e mezzo, temperatura del mare di 23 gradi. E queste invece le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi: cielo in genere nuvoloso, rovesci e temporali sparsi, ma anche con lunghe pause senza piogge. In serata possibili temporali forti con piogge localmente intense. E il meteo dunque torna a fare notizia. L'ondata di maltempo continua ad attraversare la regione. Ieri sera le conseguenze peggiori, soprattutto in Friuli e nel Pordenonese. Partiamo dalla situazione a Udine, dove oggi c'è stato un sopralluogo sulle zone più colpite del sindaco Alberto Felice De Toni. Violento, spaventoso, potente, così gli udinesi descrivono il temporale di ieri sera, durato oltre 20 minuti. Nella zona nord-est, rispetto al centro, ha picchiato duro, almeno una decina gli alberi caduti su vie pubbliche, alcuni hanno distrutto automobili, altri sono piombati su terreni privati o si sono appoggiati a case. 4 grandi piante di Parco Chiavris si sono adagiate su un'area gioco di un asilo. Chiusa al traffico qualche strada ostruita dagli alberi come via Levate, via Monte Ortigare o via Codroipo, motoseghe al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la zona. Una fortuna che nessuno si sia fatto male, perché è successo tutto tra le 20 e le 21, quando ancora c'è molta gente in giro. Danni anche all'ospedale di Udine, dove oltre agli alberi schiantati hanno dovuto affrontare l'avaria dell'impianto elettrico di una delle due terapie intensive, probabilmente legata al maltempo. Trasferiti 6 pazienti. Oltre al vento è stata l'acqua, la tanta acqua caduta ieri sera e nella notte a creare disagi, allagamenti soprattutto nella bassa friulana, la Tisana e Lignano. Altrove invece ancora problemi, per lo più con alberi. 134 gli interventi dei vigili del fuoco di Udine, aiutati dai colleghi di Trieste e Treviso, oltre che da 3 squadre di volontari. Hanno operato anche a Fagagna, Muruzzo e Martignacco. Ancora una quarantina le attività in coda da compiere. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra le zone più colpite dal maltempo, la Pedemontana Pordenonese. Allagamenti hanno causato danni e disagi e gli interventi dei vigili del fuoco proseguono. Più di 40 mm di acqua in meno di un'ora. Le forti piogge si sono abbattute sul Friuli occidentale, in particolare sulla Pedemontana, tra le 19 e le 20 di ieri. La zona più colpita è stata quella di Campagna di Maniago, dove assieme all'acqua si è aggiunta la grandine, peggiorando la situazione. Le precipitazioni intense hanno messo a dura prova le caditoie, causando allagamenti ad abitazioni, attività industriali, smottamenti e dissesti. Per far fronte all'emergenza, i vigili del fuoco hanno raddoppiato col dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenute anche le locali squadre di protezione civile con il supporto pure dei volontari del vicino comune di Montereale Valcellina. Le attività sono proseguite sino oltre la mezzanotte. Il sindaco di Maniago, Umberto Scarabello. Per fortuna è smesso di piovere già nella tarda serata di ieri e quindi oggi ci siamo concentrati nella pulizia dei danni che la grandine, ma soprattutto la bomba d'acqua che si è scaricata su Maniago nella tarda serata di ieri. La situazione al momento è sotto controllo. I danni si sono concentrati nella frazione di Campagna, dove un condominio in particolare ha avuto nei garage e negli scantinati 1,10 metri d'acqua. Allagamenti di minore portata si sono registrati anche a Fanna, Cavassonuovo e Aviano. Nelle ultime 24 ore i pompieri del comando provinciale sono stati impegnati con una cinquantina di interventi. Al momento la situazione è rientrata nella normalità in tutto il territorio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste all'alba un giovane è finito in mare cadendo nei pressi di un molo in Porto Vecchio. Avviate le ricerche che stanno proseguendo, al momento senza esito. Il ragazzo era in compagnia di un gruppo di amici, pare sia stato colpito da un malore. È caduto in mare nei pressi del Molo Quarto all'altezza del bacino 3 dopo un malore mentre stava in compagnia di amici, tra cui la ragazza ventenne che poco prima delle 4 del mattino ha chiamato i soccorsi. Da allora i vigili del fuoco, la guardia costiera e la guardia di finanza stanno ancora cercando il giovane ragazzo, un richiedente asilo di origini marocchine. Stamane si è levato anche un elicottero che è stato costretto ad interrompere le operazioni di salvataggio a causa del peggioramento del tempo. Sul posto nella notte è giunta una ambulanza che ha preso in carico la ragazza, ha raccolto la sua testimonianza e l'ha trasportata all'ospedale di Cattinara, dove si trova ancora in osservazione. Un racconto confuso in quanto si trovava in evidente stato di ebbrezza. Al momento ci sono pochi elementi per poter ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sembra che la zona sia frequentata nelle ore serali e notturne da diversi gruppi di giovani. La versione del racconto della ragazza, che al momento dell'arrivo dei soccorsi era in evidente stato di ebbrezza, potrebbe non essere attendibile e intanto si stanno cercando gli altri componenti del gruppo. Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi che il ragazzo fosse stato salvato dagli amici mentre la ragazza stava chiamando i soccorsi. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono riprese con una sessantina di persone tra vigili del fuoco e protezione civile le ricerche di Christian Molnar, il 25enne trascinato via dal Natisone il 31 maggio. Si opera per il 12° giorno consecutivo, nonostante il peggioramento del tempo. Sospesa momentaneamente solo l'attività dei sommozzatori per via delle condizioni del fiume, tornato torbido e impetuoso dopo le ultime piogge, ma anche i sub potrebbero riprendere le ricerche nel pomeriggio, secondo il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata. L'intenzione è di continuare a cercare anche nei prossimi giorni, almeno fino alla confluenza del Col Torre. Sul fronte dell'inchiesta, ieri è stato sentito dagli investigatori come testimone il vigile del fuoco che si era tuffato nel disperato tentativo di salvare i 3 ragazzi. La procura sta appurando eventuali responsabilità omissive nei soccorsi. Il fascicolo a carico di ignoti ha come ipotesi di reato l'omicidio colposo da quando sono stati trovati i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros, di 20 e 23 anni. La politica, sempre più concreta la possibilità delle elezioni al Parlamento europeo della coordinatrice regionale di Forza Italia Sandra Savino. Il seggio per gli azzurri nella circoscrizione nord-est è dato per scontato da tutti gli osservatori, anche se non è stato ancora ufficializzato. E l'elezione di Savino, terza per numero di preferenze, è legata alla sicura rinuncia del ministro e segretario del partito Tajani e a quella, che appare molto probabile, del parlamentare veneto Flavio Tosi. Tutto dipenderà dalle decisioni prese in sede romana da Tajani stesso, alle quali sia Tosi sia Savino hanno dichiarato di voler adeguarsi. Per andare al Parlamento di Bruxelles, Savino dovrà dimettersi dalla carica di sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Diventerebbe la terza europarlamentare regionale di questa legislatura, insieme ad Alessandro Ciriani per Fratelli d'Italia e ad Anna Maria Cisint per la Lega. Sgomberare il silos accanto alla stazione entro 2 settimane, lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco di Trieste Di Piazza, ma resta il nodo dell'accoglienza dei migranti ancora senza sistemazione. Un'ordinanza che prevede entro 2 settimane lo sgombero del silos di Trieste e che impone a Coop Alleanza 3.0, proprietaria dello stabile, di rimuovere le suppellettili e la spazzatura accumulate e di recintare l'immobile impedendo l'accesso anche con un servizio di vigilanza. Ad emetterla il sindaco Roberto Di Piazza, che l'ha pubblicata sull'albo pretorio del comune e inviata alla questura, alla prefettura, ai vigili del fuoco, alla proprietà e ad Asugi. Arriva sulla scorta di un sopralluogo dell'azienda sanitaria stessa, che una volta di più aveva evidenziato le condizioni igienico-sanitarie in cui vivono le decine di migranti che trovano rifugio nel silos. L'esecuzione è ovviamente affidata alle forze dell'ordine e dovrà avvenire, come detto, entro 15 giorni. I migranti non troveranno posto all'ostello di Camposacro, spiega il sindaco, dove i lavori di adattamento non sono ancora completati, ma si provvederà al loro trasferimento fuori città. I lavori all'ostello più che non completati non sono neppure iniziati, ribatte l'ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, in una nota. L'inagibilità e la pericolosità del silos sono fuori discussione, dice ancora ICS, ma lo sgombero è solo altra violenza. Il consorzio si chiede anche dove andranno coloro che hanno diritto all'accoglienza secondo la legge, ma arriveranno nei giorni successivi alla chiusura. Coppa Alleanza 3.0, da noi contattata telefonicamente, ha detto di essere pronta a rispettare l'ordinanza e ad attuare la messa in sicurezza dell'immobile una volta che i migranti saranno stati trasferiti. Nello stesso tempo, la società conferma l'esistenza di una trattativa in stato avanzato per la cessione del silos, ma senza essere in grado di precisare un tempo per la sua conclusione. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Tre cantieri edili a Lignano Sabbiadoro, Mortegliano e Fagagna sono stati sospesi dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, che hanno riscontrato gravi inadempienze e la presenza di manodopera in nero. Le attività sono state fermate e sono state irrogate sanzioni per oltre 95.000 euro. Irregolarità riscontrate anche in ambito agricolo, con 90.000 euro di sanzioni a carico di aziende di Bicinicco, Rivignano e Cividale del Friuli. Tentato furto al centro di distribuzione di Trieste di Poste Italiane. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, a seguito di alcune segnalazioni, i carabinieri hanno scoperto degli intrusi all'interno del centro delle Poste. Durante l'intervento, uno degli estranei è stato fermato. I ladri non hanno fatto in tempo a rubare nulla. L'economia, esportazioni in calo nel primo trimestre dell'anno, lo certificano le ultime analisi dell'Istat, che per il Nord-Est indicano un calo dello 0,9%, che su base annua è stimato in progressione fino a un meno 2,4%. In un quadro d'area negativo, il Friuli Venezia Giulia va in controtendenza. I dati Istat evidenziano infatti un impulso positivo, dato in particolare dall'aumento delle vendite di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, che fa segnare nel trimestre un più 1,3%. Apporti positivi anche su base annua, con l'aumento delle esportazioni dal Friuli Venezia Giulia verso gli Stati Uniti, dati in crescita di oltre il 250%. Tra le performance positive nell'analisi provinciale dell'export spicca a livello nazionale quella della provincia di Gorizia, indicata tra le migliori per l'export insieme ad Arezzo, Firenze, Latina e Napoli. Oltre 50 università si riuniscono a Udine per il confronto nazionale del titolo Le Università per lo Sviluppo Sostenibile del Paese, in programma oggi e domani all'Università di Udine. L'obiettivo dell'incontro è rafforzare il ruolo delle università nello sviluppo sostenibile dei territori e al termine dei lavori sarà presentato un nuovo manifesto. Ne abbiamo parlato con il rettore dell'Ateneo Friulano, Roberto Pinton. Noi vogliamo ribadire e consolidare il ruolo che le università possono avere nella transizione verso lo sviluppo sostenibile dei territori e dell'intero paese. Ovviamente quello che è nelle corde dell'università, cioè facendolo attraverso la formazione, attraverso il trasferimento della conoscenza e alla condivisione di buone pratiche. Naturalmente non da soli, ma con amministrazioni locali e con altri soggetti che sono coinvolti nel sistema della sostenibilità. E a chi vi rivolgete? Intanto ci confrontiamo fra di noi, perché diciamo le università, che poi appartengono alla rete delle università sostenibili, sono 86, ne avremo una cinquantina a Udine. Sono gruppi suddivise in gruppi di lavoro e quindi andremo a verificare ciò che abbiamo fatto e poi ci rivolgiamo agli ovviamente amministratori pubblici, alle aziende, agli enti sia pubblici che privati, alle pubbliche amministrazioni, nel tentativo di capire come possiamo assieme coprogettare delle iniziative, realizzare delle iniziative che ci consentano di guardare a quelli che sono gli obiettivi, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 della Comunità Europea. Quindi l'università diventa sempre più protagonista rispetto agli anni passati? Sì, sia come oggetto che come soggetto dell'azione. Dal Friuli Venezia Giulia partirà nel corso dell'estate una quarantina di studenti che hanno appena concluso il percorso di formazione guidato dai volontari locali per affrontare al meglio le sfide educative e formative all'estero. A tirare la volata delle partenze con Intercultura sono le oltre 1100 borse di studio a copertura totale o parziale della quota di partecipazione. In Friuli Venezia Giulia quasi il 75% dei vincitori del concorso potrà trascorrere un periodo scolastico all'estero grazie a un contributo economico di Intercultura e di aziende, enti e fondazioni che tramite le attività di raccolta fondi di Fondazione Intercultura sostengono questo importante progetto educativo. Il 45% volerà in Europa, il 31,5% in America Latina, il 3% in Canada e negli Stati Uniti, il 15,5% in Asia, il 5% tra Australia e Nuova Zelanda. Il classico anno scolastico all'estero rimane la durata per eccellenza, scelta da quasi il 55,5% degli studenti, mentre il 21% rimarrà all'estero per un semestre e l'8% per un trimestre. Il rimanente 15,5% starà all'estero quest'estate per un periodo compreso tra le 4 settimane e i 2 mesi. Liste d'attesa ridotte e 150 trattamenti di problemi cardiaci in più entro la fine dell'anno. Sono i risultati che ci si attendono grazie alla nuova sala angiografica appena inaugurata all'ospedale di Udine. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale inaugura nel padiglione 5 una nuova sala angiografica che dovrebbe consentire un aumento della produttività del 30%. Sarà utilizzata dal Dipartimento di Cardiologia Interventistica che si occupa del trattamento di cardiopatie ischemiche, aritmie, patologie valvolari e cardiovascolari. Finora l'attività era avvenuta in 3 sale, con alcuni momenti di concomitanza e limitazioni al numero di esami e procedure eseguite in base alla disponibilità delle sale e alle urgenze. La nuova sala angiografica, realizzata con un investimento di 990.000 euro, 800.000 dei quali donati da ABS e Danieli, consentirà di arrivare a circa 150 procedure in più rispetto alle attuali entro fine anno, che passeranno a 700 in più nel 2025, ha affermato il direttore generale Denis Caporale, consentendo un abbattimento delle liste d'attesa nelle 2 branche di emodinamica ed elettrofisiologia elettrostimolazione. Interventi per esempio come impianti di pacemaker, ablazioni di aritmie angioplastiche coronariche, a fronte di volumi in aumento dal 2019 che vanno di pari passo con l'invecchiamento della popolazione, sottolinea Massimo Imazio, il direttore di cardiologia del Dipartimento Cardiotoracico. La sala è stata realizzata a tempo record. Dalle proposte di donazione da parte del privato a marzo 2023, tra affidamento lavori, collaudo e avviamento, dal 1 aprile 2024 era già in funzione. Regione e ASUFC hanno investito inoltre 580.000 euro su un nuovo angiografo e relative strumentazioni. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora della diga foranea di Trieste che dopo gli ultimi tentativi di rilancio, il più importante oltre 15 anni fa, versa in uno stato di abbandono. La Lega Navale, che l'ha gestita negli ultimi tempi, a breve rimetterà la concessione. Ma quali scenari possono aprirsi? Sentiamo. Mia mamma ci andava quando era giovane, al suo tempo, e adesso so che deve essere ristrutturata. Era un bel posto dove andare, sicuramente un peccato, sì, anche perché era molto comoda, cioè si raggiungeva con il traghetto. Mio papà mi raccontava che quando era giovane faceva una nuotata dalla piazza Unità alla diga. Era veramente la quiete che c'era là, per me indimenticabile. È un luogo del cuore per tanti triestini, la diga foranea, eretta nell'Ottocento a protezione del Porto Vecchio e diventata nel tempo anche piattaforma per bagni, svago e tintarelle. Da anni però è in disuso dopo che il progetto di recupero ipotizzato dalla Lega Navale, che aveva preso in concessione l'infrastruttura dall'Autority Portuale di Trieste per le proprie esigenze logistico-sportive, si è arenato per via dei danni dovuti alle ultime mareggiate, spiega il presidente della stessa Lega Navale, Fabrizio Bonazzi. Noi abbiamo fermato il nostro progetto che era stato già in parte finanziato dalla regione, anche perché più o meno si possono individuare in circa 2 milioni di euro i danni che la mareggiata ha fatto sulla parte, diciamo, della balneazione della diga. L'autorità portuale sta portando avanti indagini accurate sullo stato di salute della diga per capire a quali usi destinarla in futuro, in aggiunta al suo fondamentale e primario ruolo di frangiflutti. Le idee non mancano, come suggerisce Giovanni Fraziano, già preside della Facoltà di Architettura all'Università di Trieste. Da un lato legarla alle attività del mare, e quindi ci sta la scuola di vela, però dall'altro di considerarla in uno spettro più ampio in relazione a quello che è il futuro del Porto Vecchio. Cioè, la diga è prospiciente il magazzino 26, dove stanno realizzando il Museo del Mare, potrebbe essere un'appendice importante di quel museo. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Pordenone è stato approvato durante l'ultima riunione di giunta il progetto esecutivo relativo all'area verde del polo Young. Secondo le prescrizioni della soprintendenza, che impongono di compensare i 43 tigli abbattuti a marzo tra le polemiche, saranno piantati 56 nuovi alberi adulti che si aggiungono ai 90 già presenti. Sei di questi sono proprio tigli. Come spiega l'assessore all'ambiente e al verde Mattia Tirelli, l'area assumerà la dignità di un vero e proprio parco, un'isola liberata dalle auto, attraversata da un nuovo sistema di percorsi ciclopedonali con pavimentazione drenante antitrauma. Saranno installate anche nuove rastrelliere per circa 60 biciclette, insieme a nuovi arredi e giochi interattivi per i più piccoli. A Monfalcone al via i lavori di riqualificazione dei marciapiedi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Partono infatti questa settimana i lavori per il rifacimento e che vedranno entro la fine del 2024 la riqualificazione di via Marzio Moro, via Pucino, via della Crociera, Capitello del Cristo e via Cellottini. Il primo lotto, che partirà nei prossimi giorni, prevede il rinnovo del manto stradale e percorsi accessibili per via della Crociera, Capitello del Cristo e via Aulo Manlio. Ed ora allo sport, la pallanuoto. C'è anche Luca Marziali della Pallanuoto Trieste tra i convocati dalla nazionale italiana al lavoro in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Settebello torna al lavoro a ranghi completi. La squadra nazionale, guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna, si radunerà a Ostia il 14 giugno al Centro Federale per cominciare la prima fase di preparazione, che la vedrà arrivare fino all'esordio olimpico il 28 luglio contro gli Stati Uniti. Alcuni appuntamenti. Il Festival del giornalismo Le Ali delle Notizie si è aperto oggi a Ronchi dei Legionari e dura fino al 16 giugno, prevede 85 incontri con oltre 280 ospiti internazionali, panel, mostre e ben due premi giornalistici. Il primo, il premio Le Ali Young in memoria di Cristina Visentini, destinato ai ragazzi dai 18 ai 35 anni, viene consegnato proprio oggi alle 19 al Palatenda in Piazzale Martiri delle Foibe. Il secondo, il premio Le Ali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia, sarà assegnato alla fine della rassegna, cioè domenica 16 giugno. Il vincitore di questa edizione sarà Sigfrido Ranucci, autore e conduttore del programma Rai Report. Tra gli appuntamenti di questa prima giornata, quello di estrema attualità sul conflitto israelo-palestinese, alle 17 al Palatenda, l'incontro su Israele-Palestina, due popoli, due stati, con Shuruk Assad, Laura Silvia Battaglia, Alva Dabulsi e Barbara Schiavulli, inviata freelance di guerra. Incidenti sul lavoro: da ottobre le aziende sui cantieri dovranno richiedere la patente a punti, crediti che saranno decurtati in caso di inadempienze sul fronte sicurezza e infortuni. E proprio la patente a punti al centro dell'incontro organizzato a Palma Nova dalla CNA Costruzioni del Friuli Venezia Giulia, che discuterà degli scenari futuri del settore insieme al presidente Denis Petrig e il responsabile nazionale Riccardo Masini. L'appuntamento è al San Marco Meeting Point in via Scamozzi dalle 17.30. Lo sport, protagonista a Udine, torna per la seconda volta l'iniziativa Angelo del Castello, format di UdineseLife.it per l'Associazione Sportiva Udinese, a sfilare i campioni degli sport senza pallone come atletica leggera, arti marziali, ciclismo, danza sportiva, ginnastica ritmica, motociclismo e così via. Ad animare la serata i giornalisti Edi Fabris e Monica Tosolini, insieme a loro le glorie olimpiche della regione, le giovani promesse. Ci saranno Chiara Cainero, Daniele Pontone, Sara Dragas, Gabriella Peruzzi, Paruzzi, Martina Dicenta e tanti altri. Inizio alle 18 al Palaprexta. Gli spettacoli nell'ambito di Trieste Estate 2024. Paolo Rossi è in scena stasera con Operaccia Satirica, creazione stravagante fatta di storie rielaborate accompagnate in musica con linguaggio scorretto e variegato. Con lui i musicisti Emanuele Dell'Aquila e Alex Orciari, oltre a Caterina Gabanella, alle 21 al Giardino del Museo Sartorio. Penultimo appuntamento con i concerti del Conservatorio. Stasera si esibirà l'ensemble contemporaneo Tartini, coordinato dal professor Adriano Martinolli d'Arcy, con brani come O King di Luciano Berio e Piccola musica notturna di Luigi Dalla Piccola, insieme a prime esecuzioni assolute di brani degli allievi di composizione, alle 20:30 in sala Tartini con ingresso libero. Terzo concerto del Festival Gli Amori di Ludwig van Beethoven, Angelo mio, mio tutto, anima mia, rassegna che vuole esplorare il lato sentimentale del musicista tedesco. A suonare il pianista Giuseppe Andaloro, che eseguirà la sonata Al chiaro di luna di Beethoven, e i quattro improvvisi di Schubert, alle 20:30 alla Sala Luttazzi del Porto Vecchio. A Trieste si chiude la prima edizione della rassegna dedicata alla lideristica, parole e musica attraversano i confini. Stasera il concerto dei Van Sisiem, lead duo formato dal soprano milanese Paola Camponovo e dal pianista udinese Alfredo Blessano. In programma Schubert, Brahms, Reinberger, Strauss. L'auditorium del Museo Revoltella alle 20:30. Alle 12:55 si chiude questa edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Dario Ronzoni e Andrea Covri. Andate in onda grazie alla collaborazione di Mauro Ciccarelli. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.